nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Non so se vi siete accorti a proposito di stagioni, di questa tempesta solare che dicono che è la più forte, la più violenta negli ultimi 5 anni. Dovete immaginarvi i raggi fotonici, no, ai tempi di Mazinga sul pianeta. No, non è questo, però eruzioni, una tempesta, appunto una pioggia di raggi dal sole, raggi particolari. Che cosa hanno fatto? Hanno praticamente creato delle difficoltà nelle telecomunicazioni, nelle comunicazioni dei satelliti, dei GPS, insomma praticamente. Se, come la gran parte delle persone, ormai avete un navigatore in macchina e volevate andare a Viterbo, vi siete ritrovati a Trieste, è per quello, perché sono andati in tilt tutti questi mezzi tecnologici. A me è successo correndo, no? Facendo running, ormai tanti sono dotati di questi orologi GPS che vi dicono a che velocità andate, dove state andando, il percorso, persino le calorie, la velocità, eccetera, eccetera. Correvo al parco e vedevo che era proprio una velocità da formica sull'orologio ed era un affronto per il mio orgoglio, quindi correvo sempre di più, ho quasi rischiato l'infarto, ma in realtà era la pioggia solare, diciamo, che creava tutto questo fraintendimento tra me e l'orologio che stavo per lanciare, diciamo, in un bosco, e poi alla fine ho avuto compassione e così ho continuato a correre cercando di capire anche l'orologio qualche volta ai suoi momenti. No, 800 24 00 24, il numero verde, ve lo dico da subito, perché voi sapete che questo è l'appuntamento ogni sabato dalle 14 alle 15 tra me e voi per raccontarci i fatti della settimana e soprattutto per dire quali sono le vostre libere opinioni sulle tantissime notizie che anche questa settimana si sono susseguite, e poi con l'aiuto competente di un opinionista estemporaneo ogni volta diverso, a volte ritornano anche qui come succede in altre situazioni. E quali tra le notizie di questa settimana potremo brevemente elencare? Poi voi potete scegliere quella che volete, per esempio appunto questo drammatico blitz in Nigeria in cui è morto un ostaggio italiano, con tutta la scia di polemiche e poi anche interne, no? Intanto la tensione tra la Gran Bretagna e l'Italia, perché sapete che è stato un blitz delle teste di cuoio inglesi, e poi anche all'interno, figuriamoci se si poteva evitare, no, di darci degli incapaci reciprocamente. Poi sempre sulle questioni di politica estera e diplomazia internazionale, la vicenda dei due marò italiani che restano ancora in India. Le esternazioni di Bossi, avete sentito che ha detto questa settimana Monti rischia la vita, il nord lo potrebbe fare fuori, poi si è un po' corretto. Le presunte tangenti al Pirellone, un altro caso, con questa volta implicato il presidente del consiglio regionale Davide Boni della Lega, una situazione un po' particolare anche lì, su 5 componenti della presidenza del consiglio uno solo è rimasto superstite, diciamo c'è anche una certa par condicio tra PDL, PD, Lega, tutti un po' coinvolti in questa storia di tangenti. Alfano, il segretario del PDL, ha avuto un atto di forza questa settimana, ha detto no, io da Monti non ci vado, non vado a parlare di Rai e di giustizia. E poi le polemiche dopo sul ministro Riccardi, che in un colloquio a proposito di questa faccenda aveva detto alla sua collega Severino, insomma, a me questa cosa di strumentalizzare questi fatti è una delle cose che più mi fa schifo della politica. Poi l'8 marzo, forse vi siete accorti che è stato l'8 marzo, e diremo poi anche perché le primarie del PD, che sono sempre una sorpresa, non ci si annoia mai le primarie del PD, la Grecia che forse, diciamo, è uscita dal baratro. Anche l'Italia, Standard & Poor's per la prima volta l'ha promossa dicendo che ha fatto dei buoni passi. Poi le polemiche durante i funerali di Lucio Dalla, era omosessuale perché non l'ha detto, ma in realtà ha fatto su. Insomma, quante cose potete commentare? 800 24 00 24. E che cos'è che ci conferma anche questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere sono un granché. Anche questa settimana mi soffermerò, per dirci cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni, su un fatto meteorologico, ma drammatico. Voi sapete che un piccolo stato dell'Oceania, nel Pacifico, Kiribati, sta affondando con tutte le sue 32 isole, e quindi il presidente di Kiribati, poveretto, sta negoziando l'acquisto di terreni nelle isole Fiji per consentire la migrazione in massa della popolazione. Sono 113.000 persone, non tantissime ma neanche poche, e dovrebbe essere questo il primo esodo di un'intera popolazione provocato dall'effetto serra. Dicono l'effetto serra, sai, invece in questo caso chissà che piano piano la cosa non si diffonda. E poi invece cosa ci conferma che ci sono sempre le mezze stagioni? Perché vi dicevo, è stato l'8 marzo e in realtà nulla è cambiato, nel senso che le donne sono sempre sottopagate, sempre difficoltà di carriera in Italia, appunto percepiscono di meno, sono le maggiori disoccupate, e in più nella giornata dell'8 marzo ci sono state 7 vittime in una giornata. Di solito sono 2 o 3 donne ogni 3 giorni, anzi una donna uccisa in Italia. Sapete, il femminicidio continua a passare così in silenzio, a parte le associazioni femminili che se ne occupano, per il resto una cosa proprio fisiologica. Pensate, 7 donne nell'arco di 24 ore per festeggiare l'8 marzo, proprio in occasione dell'8 marzo. E pensate per un attimo, siccome sembra un fatto così appunto di tendenza, di costume, una cosa che si lascia così passare come una musica in sottofondo, provate a pensare, per capirne la gravità, che a volte sembra così difficile rendersene conto, se succedesse il contrario, se ogni 2 o 3 giorni venisse fatto fuori un uomo da una donna in Italia, secondo voi serve tutto questo silenzio, tutta questa indifferenza? Bene, 800 24 0024, chi è, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi? Curzio Maltese. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Curzio. Ti sento molto compito in questo momento, molto... Sei tranquillo a casa? Sì. Sì. Curzio Maltese è giornalista, scrittore, editorialista di Repubblica, e mi piacerebbe sapere, prima di porti mille altre domande, caro Curzio, per esempio rispetto a questo fenomeno, che domande ti sei fatto, cosa hai pensato, che dici? Della violenza sulle donne, sì, o dell'emarginazione sul lavoro? No, direi soprattutto o di entrambi. È tutta una questione culturale che ha tutto un filo rosso, in realtà è tutta unita questa cosa, no? È un considerare le donne di serie B e gli uomini di serie A, e quindi tutto questo poi si riversa nella vita sociale e anche nel perire ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, quindi è tutto molto collegato, soprattutto del femminicidio che passa. Tu pensa, se veramente succedesse che ogni 2 o 3 giorni venisse ucciso un uomo per mano di una donna, secondo te ci sarebbe la stessa indifferenza, lo stesso pensare che sia un fenomeno così ormai connaturato, normale? Assolutamente no. Questi sono però fenomeni terribili. Ce ne sono di meno evidenti, che sono secondo me l'humus in cui matura una certa concezione della donna. In tutti questi anni, parlando con i colleghi dei stranieri, la cosa che più li colpiva, a parte i nostri governanti, era il modo in cui la televisione italiana rappresentava le donne e continua a rappresentarle. Cioè è una cosa, come dire, inconcepibile nei paesi civili. Sempre in un ruolo di vallette seminude, sempre in un ruolo marginale rispetto ai signori maschi che conducevano tutto, che comandano. Insomma, è una rappresentazione che sembra appartenere a un altro tempo e sulla quale, secondo me, che è l'espressione di una società molto arretrata da questo punto di vista. Poi ci sono tante ragioni storiche, ecco, legate al costume italiano, alla religione, a tanti motivi. Però questa rappresentazione delle donne anche nel servizio pubblico Rai, anzi ultimamente soprattutto in quello, è secondo me molto offensiva. Sono anche piuttosto stupiti. In realtà non è vero che non ci sia una ribellione, perché io ricevo email tutti i giorni su questo tema da donne italiane. Però, come dire, c'è una rassegnazione al fatto che siano rappresentate così le donne nella TV pubblica italiana. È una cosa. Quindi anche il passaggio. Che a me fa schifo, per usare. Proprio di schifo. Di moda. Senti, Curzio, ma quindi del passaggio, diciamo, tra un governo anche, diciamo, composto da personaggi che hanno caratterizzato anche un certo eccesso su certi aspetti, e il passaggio al governo tecnico non ha molto cambiato, cioè la cultura, ormai il volano. No, quello da quel punto di vista è molto cambiato, perché questo è un governo tecnico che ha una presenza femminile abbastanza importante, ed è una presenza femminile molto molto qualificata, mentre il governo precedente aveva una presenza femminile, diciamo, coreografica e per alcuni versi imbarazzante. Anche se la ministra Carfagna, con tutte le polemiche che hanno seguito la sua elezione, delle cose buone sulle pari opportunità, sul contro l'omofobia, qualcosa tuttavia ha fatto. Sì, Sì, paradossalmente diciamo che è quella che, dalla quale ci si aspettava meno e che forse ha fatto di più. Ha fatto meglio. Sulle altre, diciamo dalla Gelmini alla Brembilla, magari si potrebbero fare altri discorsi. Anche se non parlerei solo di donne, ma qui ci fermiamo, Curzio, perché volevo farti una domanda fondamentale a questo punto. Tu sei pronto? Sì. Pronto per questa domanda? Sì. Tu sei allergico ai pinguini? No, a me i pinguini piacciono molto, perché... No, magari non so, ti si avvicina un pinguino, ti viene l'orticaria. No, perché pensa che c'è stato un volo in questi giorni, un volo della Delta Airlines tra Atlanta e New York, e a un certo punto il comandante ha mandato un messaggio ai viaggiatori dicendo: scusate, devo avvertirvi, qualcuno è allergico ai pinguini. E hanno detto: tutti si sono guardati, ma non ho mai provato l'allergia al pinguino, non mi è mai capitato un incontro ravvicinato. Allora lui ha detto: vabbè, allora posso farli passeggiare tranquillamente. Erano due pinguini veri che devono essere portati appunto a New York per girare un documentario, e hanno cominciato a passeggiare. Così, giusto per saperlo, se viaggi in aereo e qualcuno dice sei allergico al pinguino, fai magari dei test prima di viaggiare sulla Delta Airlines. Senti, adesso invece io proverei già a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori, visto che avevo fatto un elenco abbastanza nutrito di notizie. Poi prova a pensare anche tu se, oltre a quelle che ti sottoporrò, c'è una notizia in particolare sulla quale vuoi soffermarti. Comincerei a sentire all'800 24 00 24 Domenico da Pavia. Sì, buongiorno. Buongiorno Domenico. Buongiorno a lei e al suo ospite. Grazie. Niente, io ho telefonato per il famoso, è diventato ormai, ha fatto il giro del mondo, la notizia che del blitz dell'Inghilterra per quanto riguarda appunto la liberazione degli ostaggi, che poi gli ostaggi sono morti entrambi. Ecco, io questa notizia l'ho preso con molta molta rabbia. Perché? Perché per l'ennesima volta noi italiani veniamo presi a pesci in faccia da tutte le altre nazioni. Io mi ricordo anni fa quando c'è stato il Cermis, se vi ricordate. Ah, questa è stata una cosa gravissima, Val di Fiemme in Trentino Alto Adige. E poi alla fine cosa hanno fatto gli americani? Boh, glieli abbiamo restituiti e li hanno processati in Italia, in America, cose che invece avrebbe dovuto rimanere in Italia. E poi il discorso dell'India. L'India, anche lì ci sono sti due poveri cristi che hanno sparato e hanno ammazzato, per carità, povera gente anche loro, però anche di lì hanno preso la cosa sempre, come dire, ci hanno sempre trattato male. Noi dobbiamo dimostrare di non essere più così, perché a questo punto noi italiani quanti soldati, quanti militari noi abbiamo sparsi per il mondo per fare opere di pace, missioni di pace di qui, missioni di pace di là, e poi veniamo trattati in questa maniera. No, a questo punto dico, ritiriamo tutti i nostri militari e ce li teniamo a casa nostra. Sempre Roberto Giordano con voi, e sempre opinionista estemporaneo di oggi è Curzio Maltese, editorialista di Repubblica. Curzio, sentivi allora il disappunto, il dispiacere di questo ascoltatore, no? A proposito di questo contesto internazionale, ha elencato un po' di fatti, ultimo questo relativo al blitz in Nigeria. Che ne pensi? C'è davvero una poca considerazione ancora del nostro paese a livello internazionale, o sono delle coincidenze legate a contesti particolari? In India per esempio ci saranno le elezioni, quindi vogliono far vedere che fanno un po' il braccio di ferro, che loro contano, che ne pensi? Beh, intanto c'è una questione che riguarda solo gli italiani, cioè, come dire, scarso considerazione dei civili da parte dei militari nel Cermis. Morirono dei turisti che erano su una seggiovia, sì, quasi tutti stranieri, c'erano tre italiani. Sì, il processo fu scandaloso, molto scandaloso, sì. E anche in questo caso l'esercito britannico non è la prima volta che fa questi interventi, come diciamo, piuttosto inopportuni dal punto di vista del rispetto delle vite umane. Mi pare che il governo abbia cercato questa volta di far valere le nostre ragioni più di quanto sia accaduto in passato. Non penso sia solo una questione di naturalmente lo è anche, di scarsa considerazione dell'Italia sullo scenario internazionale per colpa poi di classi dirigenti di questi anni, di tutti questi anni, non parlo di Berlusconi piuttosto che di quelle che c'erano prima, o in mezzo, ma credo che sia proprio una specie di zona franca in cui si muovono ormai gli apparati militari senza considerare le vite delle persone civili. Tra l'altro siamo passati a guerre dove le vittime sono sempre civili. Nella seconda guerra mondiale, diciamo, la proporzione tra militari e civili uccisi era la metà, nella prima guerra mondiale erano molti più militari. Oggi il 90% delle vittime delle guerre sono civili, le vittime militari sono molto limitate. Loro stanno un po' più a distanza. Esiste una specie appunto di impunità, Quindi, io spero che in questo caso, che è abbastanza evidente. Quindi lo legge in questo modo. Sentiamo Francesca Carla da Monza. Francesca. Oh, buongiorno Roberta, buongiorno. E buongiorno a Curzio Maltese, sì. Che stranamente io non sapevo che lui era ospite oggi qua, pensavo già di parlare di questa cosa. Francesca, scusa, se tu senti il promo a Radio 24, guardi la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, leggerai ogni volta l'ospite che può essere presente. Ma io non sono né tecnologica né niente, io leggo, ho letto un bellissimo articolo sulla TAV, che sul supplemento di Repubblica di Curzio Maltese, l'ho ritagliato, l'ho appiccicato sul mio quaderno. Ah, mannaggia, adesso è caduto un momento, hai sentito quella linea, quindi non ti sta sentendo, ma lo recuperiamo subito. Non mi sta sentendo, comunque sì, perché mi è piaciuto. Ecco, io guardi, Roberta, volevo proprio parlare dell'alta velocità, della mia Valle di Susa, perché io sono nata in Valle di Susa. Non si sente, guarda caso. Ho vissuto fino all'età di 24 anni lì, no? Ho ancora due stanzette nella casa vecchia dei miei genitori, ecco, le mie radici sono lì, anche se io sono 30 anni che sono qua a Brughi, sono stata nel napoletano, insomma, Senti, ma cos'è che ti ha convinto di più dell'articolo di Curzio Maltese sulla TAV? Che cosa diceva, ecco, che condividi? Ha detto alla fine che anche un'opera inutile oggi poteva andare bene 20 anni fa, oggi è inutile veramente, anche perché verrà a costare moltissimo e anche poi perché, insomma, ci sono troppi interessi in quest'opera qua e l'Italia ha bisogno di tante altre cose. Grazie Francesca. Allora, io guardavo, l'ho visto questa settimana, che il governo, per diciamo mettere un po' di ordine sulle tante informazioni e controinformazioni relative alla TAV, no? Perché c'è chi dice si spenderà così, chi dice no, non si spenderà così, c'è l'amianto nella montagna, no, non c'è l'amianto nella montagna, eccetera eccetera, ha messo su web, sul sito del governo, alcuni dati, dice questa è la verità. Per esempio dice che ci sarà poi una compensazione per quei territori di 135 milioni, vorrei sapere, proprio così, molto in modo naif chiedo, dove si troveranno tutti questi soldi. Poi ci saranno altri milioni dati come compensazione a quel territorio, e ci saranno, c'ho scritto, più di 2000 persone direttamente impegnate in Italia nella realizzazione della nuova linea. I cantieri indurranno una media di 4.000 occupati indiretti e 5 anni dopo l'entrata in servizio di questa linea 500 posti di lavoro. Insomma, una serie di elementi che dovrebbero far accogliere positivamente questa operazione. Che dici, Curzio? Ma è molto difficile ormai discutere della TAV, perché come dire, ci sono dei partiti molto radicali, cioè chi vuole andare avanti ad ogni costo e chi... come dire, contesta radicalmente l'opera. La verità, secondo me, da quello che ho capito, è che la TAV sarebbe stata molto utile se fosse stata fatta prima. Come del resto le autostrade che si stanno facendo un po' in tutto il nord sarebbero state utili se fossero state fatte prima. Scusa, ma prima però ci sarebbero stati lo stesso i problemi, l'amianto, i costi, le cose? No, Curzio, però tu dici avrebbe avuto un'altra utilità. Sì, ma sarebbero stati compensati da una... da un'utilità reale, che adesso è un po' più problematica. Cioè il problema di fondo nel nostro paese è l'incapacità di guardare al futuro, è l'incapacità che negli ultimi 20 anni ha bloccato tutto e adesso stiamo cercando di recuperare, probabilmente su terreni sbagliati. Noi nel resto d'Europa, nei grandi paesi europei, si sta investendo su altre cose, sull'autostrada del mare, come si sta investendo nella banda larga, come si sta investendo nelle autostrade. Noi siamo sempre lì col fiato alla gola, insomma, a rincorrere delle cose che avremmo dovuto fare molto tempo prima. A questo punto forse bisogna guardare avanti. Poi io capisco molto la signora, io sono milanese, sono lombardo, E tutte le volte, abito a Roma da anni, tutte le volte che torno al nord vedo questa devastazione ambientale che non deriva dalla TAP, deriva dalla speculazione edilizia. Il fatto che una delle zone più ricche d'Europa sia però anche una zona meno vivibile d'Europa, perché ormai si è consumato il suolo, si sono distrutti i paesaggi. E io capisco la gente di Val di Susa che ha già sopportato un'autostrada molto invasiva, come quella del Frejus, oggi si ribelli. Forse sarebbe il caso di ripensarla quest'opera. Capisco che non ci sono verità assolute, ecco, non è vero. Questo rende molto difficile giudicare. Un'idiozia, e non è vero neanche che però è così indispensabile. Bel guaio. Senti Curcio, mi dicono il nostro Paolo Corleone che c'è il nostro collegamento interplanetario, l'unico al mondo in una trasmissione, e quindi dobbiamo dare subito la linea. Riflessioni da Marte. Qui da Marte questa settimana si è prima di tutto potuto notare, osservando in specie il territorio italico, che per l'8 marzo la festa alle donne gli hanno fatta veramente, praticamente una carneficina, una strage di donne. Del resto non dicono da anni le donne stesse che tutti i giorni devono essere l'8 marzo? Ebbene, molti uomini hanno inteso che l'8 marzo deve essere come tutti i giorni e quindi le hanno fatti fuori anche l'8 marzo. Del resto si sa che molti uomini capiscono un po' a modo loro. Dunque, archiviata la festa della donna anche quest'anno, e che festa, dicevamo, e mentre il PD si produce nelle primarie e non ne imbrocca una che sia una, questa, si potrebbe dire, è stata la settimana intitolata all'errata corrige, sport italico tradizionale assai caro soprattutto alla classe politica. In questi giorni il Notav, che aveva dato della pecorella al carabiniere, eletto eroe per non avergli lanciato un lacrimogeno nell'occipite del manifestante, almeno il Notav non ha detto che era stato mal interpretato, ma ha semplicemente chiesto scusa. Mentre il Senatur ha avvisato il presidente del Consiglio Monti che rischia di essere fatto fuori, esattamente insomma come succede alle donne in Italia un giorno sì e un giorno no. Poi, senza far diti medi e pernacchie, corregge il senatore sobriamente il tiro e dice: volevo dire che Monti non è amato perché ci porta i mafiosi. Scoppia poi il guazzabuglio, sempre in settimana in Parlamento, perché un ministro tecnico, parlando con una sua collega tecnica, dice che tecnicamente un certo tipo di politica gli fa schifo. Neanche avesse detto che Monti rischia la vita, che gli minacciano subito una cinquantina di parlamentari imbufaliti, la sfiducia. Lui allora si corregge, ma quelli ancora più imbufaliti. Poi, anche se Alfano non va da Monti e Monti e le montagne non vanno da Alfano, quest'ultimo convince i parlamentari a sbufalirsi e così forse ritrova il suo quid. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stiano benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. E ora ritorniamo coi piedi per terra e alle telefonate che Gian Gabriele sta prendendo veramente copiose. Eugenio da Vicenza all'800 24 0024. Eugenio. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Io ho ascoltato all'inizio della trasmissione le espressioni di schifo e disdegno di Curcio Maltese verso la RAI, le trasmissioni, i giornalisti che sfruttano un certo giornalismo che sfrutta l'immagine della donna con veline, topless e cose varie. Ma sono un po' stupito perché non mi sembra che il gruppo per cui lavora si esima proprio dallo sfruttarla in questo modo. Il gruppo L'Espresso, dici? Eh sì, con anche su Repubblica Online o con i vari settimanali legati. Quindi sì, mi sembra un po' così dire che schifo fa gli altri quando in casa propria è uguale, perlomeno. Eugenio, resta un attimo, vediamo prima della prossima pausa cosa replica Curcio Maltese. Curcio, sei arrabbiato? Mi si sente un po'. No. No. Ah, no, sentivo respirare in modo un po'. Sai quando dal naso esce il fumo? No. È sotto telefono. Hai sentito cosa ha detto Eugenio? Sì. Che ne pensi? Io non l'ho mai fatto, non lo so, devo rispondere per l'intero gruppo Espresso, per il giornalismo italiano? Io tenderei a rispondere per i fatti miei, no? Io non l'ho mai fatto, poi non sono il padrone del gruppo L'Espresso, non scelgo le copertine dei settimanali. Certo, però non è da sì, lavorando per un gruppo che fa la stessa cosa. Scusi, lei per chi lavora? Dire, Eugenio, tu per chi lavora? Non è che se uno lavora alla Fiat è responsabile della scelta dei modelli? Assolutamente, però magari critica la Fiat prima degli altri. Potrebbe essere un'interpretazione questa, Curzio. No, io non sono neanche d'accordo con queste cose qua, io sono più d'accordo con l'ascoltatore, cioè non è che mi piace quando mi è capitato di dirlo nel mio giornale, io poi non lavoro all'Espresso, insomma, credo che lui ce l'abbia con le copertine, certe copertine dell'Espresso. Sì, sono assolutamente d'accordo, cioè non tanto meno in un... settimanale poi progressista come L'Espresso bisognerebbe fare l'occhiolino sulle tette in copertina, ecco. E su questo siamo d'accordo. Siamo d'accordo, anche se devo dire che negli ultimi anni sia Panorama che L'Espresso un pochino si sono dati di regola. Diciamo la verità. Grazie Eugenio. Qualcosa è servito a discuterne in redazione. Certamente. Continuiamo a discuterne. 800 24 00 24. Un attimo, Curzio, prima di lasciarci, poi c'è Angelo da Venezia, Elisa da Roma. Volevo dirti questa cosa, mi senti? Sì. Allora, leggo adesso seconda notizia su Corriere.it, Corriere Online. Alfano che dice alle banche stiano col popolo, va bene, e poi dice sul voto, perché sai che si parla del 2013 tutti insieme, una mucchiata oppure no, eccetera, con la sinistra nozze gay. Allora, io direi, ogni volta che si vuole tirare fuori uno spauracchio per dire quelli fanno pena, quelli fanno schifo, è possibile che bisogna sempre averci, perché è una cosa insopportabile. Lo dico anche perché è da questa trasmissione, se qualcuno lo ricorda, che è partita tutta la polemica con Giovanardi, i commenti che aveva fatto, eccetera, eccetera. Insomma, basta, io direi che la misura è colma. Poi dicono, ma i gay c'hanno sempre qualcosa da dire. Ragazzi, ogni volta si tirano fuori come il coniglio dal cilindro, ma il coniglio nero, non il coniglio bianco. Eccoci qui, 800 24 00 24, Roberta Giordano sempre con voi sino alle 15, come tutti i sabati dalle 14 alle 15, per commentare insieme i fatti della settimana. 800 24 00 24, ancora Angelo da Venezia, Elisa da Roma, poi voglio chiedere quella cosa a Curzio Maltese che mi sta proprio qui, questa seconda notizia che c'è oggi sul Corriere Online. Angelo da Venezia, intanto. Ciao Roberta, ben trovata. Ben trovato a te, Angelo. Sei la mia voce. Oh, molto onorata, grazie. Ascolta Roberta, me lo sono scritto così non ti faccio perdere tempo e non lascio via nulla, come il maiale. Una no? strategia di sintesi, vediamo. Sentiamo. Sì. Un piccolo dettaglio che pochi mezzi di informazione riprenderanno. Tratta della cuginanza, di come ci si procura un lavoro in una certa Italia. E delle offerte che non si possono rifiutare nelle stanze del potere. La figlia di Subranni, un generale Subranni, che si dice sia Punciutu, in qualche modo implicato nella mafia, no? Punciutu dalla mafia, questione della strage Borsellino, affiliato ad essa. Punciutu vuol dire affiliato ad essa. Tutto ancora da provare, naturalmente. E che tutto, no, si dice, si io dice, ho detto, sì. No? Ecco. E che promosse la trattativa tra Stato e mafia nel 92, trattativa a cui Borsellino si oppose e per questo fu ucciso. Dicono la questi giorni PM, sì. La figlia Danila, la figlia Danila di Subranni, sì. Lavora come portavoce dell'ex ministro della giustizia Alfano. Tra tanti lavori che una persona così poteva trovare, guarda un po', ha trovato proprio questo, no? Allora, a me viene da dire questo. Io ho la sensazione che persone come Alfano, come Schifani, come Mannino, no? A cui chiaramente auguro lunga vita, no? Però non subiranno mai la sorte che per esempio toccò a Salvo Lima, che fu ucciso dalla mafia perché non aveva fatto bene i suoi compiti, no? Ecco, finisco. Sulla base di questo dico, i 46 falchi o uccellacci vari del PDL, no? Che chiedono le dimissioni del ministro Riccardi, reo di aver accennato allo schifo che è una certa politica, no? Si ribellano perché cose così non vanno dette, cioè casomai lo schifo è da perpetrare in segreto, no? Vizi privati, pubbliche virtù, no? E poi a proposito di questo, Angelo, leggeremo anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni tantissimi commenti ci sono stati su questa cosa, però io volevo ritornare un attimo con Curzio Maltese. Allora, è possibile che nel programma elettorale lanciato oggi da Alfano per quanto riguarda il PDL, mi raccomando, attenzione, con la sinistra ci saranno le nozze gay, cioè si può agitare questo spauracchio invece per esempio di pensare al discredito, quindi fare dell'omofobia in questo modo, perché sempre dire attenzione ci sono i mostri che potrebbero emergere, quindi invece di pensare al discredito che la politica e i partiti a cui sono sottoposti in questo periodo, c'è stato anche un sondaggio questa settimana dell'IPR Marketing che secondo il quale se nelle prossime elezioni si dovesse presentare un partito dei tecnici si scatenerebbe un terremoto, proprio scriveva IPR. Questo partito raccoglierebbe il 22% dei voti, cioè quanto il PD e ben più del PDL, fermo al 17%. Quindi invece di pensare a queste cose, invece di pensare a quello che succede nella regione Lombardia, Formigoni si deve dimettere, non si deve dimettere, che cosa sta succedendo, perché tirar sempre in mezzo questa storia delle nozze dei gay? Ma è mai possibile che questo possa essere uno degli argomenti principali per fare campagna elettorale? Maltese, a un certo punto non se ne può più, o no? Ma io sono sbalordito, onestamente, dalla reazione della politica, sembra vivere in un altro mondo. Allora, noi abbiamo l'ex rettore della Bocconi, presidente del Consiglio, insieme Monti, a un gruppo di tecnici, perché la politica ci stava portando alla bancarotta di Stato, e questo governo sta cercando di salvare l'Italia da un destino che era quello della Grecia. Allora, di fronte a questo fallimento, la politica dovrebbe farsi delle domande e soprattutto cambiare i linguaggi, gli stili, i comportamenti. Direi di sì, da una parte e dall'altra. Però. Mi pare che non stia proprio accadendo. No. Tra l'altro, non si può mettere sullo stesso piano le parole di Riccardi, che si riferiscono al fatto che l'ex ministro Alfano non ha presenziato un vertice con Monti e perché la mattina Monti aveva negato, diciamo, il regalo delle frequenze, il periodico regalo delle frequenze al gruppo Berlusconi, e lui ha detto questo modo di fare politica mi fa schifo, e insomma tanti cittadini non è che la pensano poi in maniera molto diversa. Non si può mettere sullo stesso piano delle parole di Bossi su Monti, perché quando uno dell'opposizione dice che il Presidente del Consiglio rischia, io vorrei sapere se l'avesse fatto Bersani quando era Presidente del Consiglio Berlusconi, che cosa avrebbe detto Bossi. Non è la stessa cosa dire quello lì rischia la vita, certo. Senti, a questo quella proposito, è un'affermazione di una violenza grave e di una barbarie inemendabile. Curzio, allora, questo la politica dovrebbe, e per di più fatta in un momento in cui la Lega dovrebbe seriamente preoccuparsi di quello che sta venendo fuori dalle carte processuali. Sì, direi che gli argomenti prioritari, insomma, sono altro. Vorrei dare un pochino di spazio, scusami Curzio, a moltissimi commenti che ci sono stati questa settimana sulla pagina Facebook della trasmissione. Per esempio, a proposito appunto della frase di Riccardi, Giorgio scrive: probabilmente era meglio non lo dicesse, ma siamo in molti purtroppo a pensarlo. E Rosi dice che se il cervello fosse collegato alle corde vocali nel momento in cui si pronunciano certe frasi, in Italia molte cose andrebbero per il verso giusto. Quindi lei è contrario, insomma, a quello che ha detto Riccardi. Giulia scrive: penso che Riccardi dica quello che pensa e mi piace, e siamo in tanti a pensarlo. Andrea: ritengo che Riccardi abbia ragione. Massimo: le scuse ipocrite in politichese sono state peggio dell'infortunio qualunquista. Quindi insomma ci sono varie posizioni. William scrive: stavolta la cosa è un po' più complicata, non si può valutarla dando ragione agli uni piuttosto che agli altri. Abbiamo un governo tecnico-taumaturgico e la politica in letargo, ma non possiamo condannare la decisione del PDL come irresponsabile. Alla fine è vero che il governo Monti è stato chiamato per l'emergenza, e poi prima di occuparci della RAI pensiamo a come far tornare i due militari dall'India. Lorenzo: Riccardi ha ragione, vorrei tanto vedere la faccia dei 46 intenzionati a sfiduciarlo il giorno dopo le prossime elezioni del 2013, sperando che tornino tutti a casa a lavorare. Floriano dice: hanno la coda di paglia, anzi hanno la poltrona da proteggere, abbiamo la più brutta classe politica che io ricordi. Corrado dice: ha detto La pura e semplice verità, Riccardi, ed è assurdo che anche una Repubblica abbia paragonato le parole di Riccardi alle sparate maldestre di Monti. Poi Angelo, si fa ma non si dice, mi sembra il succo della cosa. Vincenzo dice che sfiduciassero il paese, allora, visto che molti, ma molti italiani pensano, per la maggioranza, la pensa come il ministro Riccardi. Poi sulla questione ci sono anche i commenti sulle frasi di Bossi, che sono per lo più tutti molto negativi, ironici, e a proposito dei sondaggi PR marketing, gli ascoltatori, i facebookiani, diciamo, hanno risposto al fatto, voterebbero loro un partito dei tecnici. Luciano ha scritto: no, per la prima volta ho deciso di non andare a votare. Gianluca dice: no, meglio ladri che travestiti. Marco: se avessi la sicurezza che i tecnici fossero davvero tecnici, voterei per loro. E Sandro scrive: sì, certo, almeno per un po' dovranno ambientarsi prima di cominciare a far politica, cioè a rubare. Quindi questa è l'idea che molti hanno. Alessandro: sì, certamente, non vedo alternativa. Stefano dice: non lo so. Davide scrive: sì, Monti bis, voglio il Monti bis. Corrado: potremmo scegliere fra Mario Monti appoggiato dalla destra e Mario Monti appoggiato dalla sinistra, fantastico. Enrica dice: a conti fatti, con tasse, gabelli, aumenti, benzina e vari eventuali che dicono gli esperti bisognava fare per salvare l'Italia, mai li voterei, non solo, ma se pensassero un po' a tagliare veramente i costi della politica e non solo i vitalizi. E molti altri commenti, questo giusto appunto per dare anche un'idea dei vari commenti che arrivano alle notizie sulla pagina Facebook. Ma c'è Elisa da Roma, grazie della pazienza. Elisa, pronto? Pronto, mi sente? Sì, Elisa, ti sento benissimo. Allora, io sono un appassionato di Radio 24, però oggi per varie cose l'ho accesa mentre parlava quella signora che era contraria alla TAV e diceva, come Francesca, tanti, Carlo, sì, che in Italia c'è bisogno di tante cose. E quindi, perché la TAV, se c'è bisogno di questo e di quest'altro, allora questo è un ritornello che non se ne può più, perché allora non si fa il ponte di Messina perché c'è bisogno di tante cose in Italia. Tu lo vorresti il ponte di Messina? Sì. Non si fa la TAV perché ci sarà bisogno di tante cose in Italia, non si fa questo, non si fa quest'altro e intanto non si fa niente. Poi per quanto riguarda Curzio Maltese, visto che oggi mi sembra un po' anche molto importante in questa trasmissione, beh, io sono contrarissima a tutto quello che dice, beh, è una persona che se fosse per lui non si dovrebbe fare niente, e poi lo pregherei di fare un bel libro su De Benedetti, perché non si fa altro che parlare di Berlusconi, ma io invece vorrei tanto, tanto, tanto fare in maniera che si parlasse molto più di De Benedetti. Questo è quanto. Senti Elisa, voglio chiederti anche questa cosa. Ci sei? Elisa? Dimmi. Allora, mi pare di aver capito che sei di centrodestra, giusto? Sì. Sì. Allora, se a te fa paura l'idea che se dovesse vincere mai il centrosinistra, guarda, no? In questo momento, scusa, sì, non sono né di centrodestra né di centrosinistra, perché come tanti in Italia abbiamo perso assolutamente fiducia in tutti i nostri politici. Come si voleva dimostrare allora, prima proprio di quello che si diceva. Allora, bene, sì, però mi sembra che a parte le tasse, che adesso escono pure fuori i libretti, guarda, io ho un libretto qui davanti a me del Corriere della Sera, l'anno che ha cambiato la vita degli italiani, dove dovremmo studiarci a tavolino quello del Sole 24 tutte le nuove ore, tasse, sì, scusa, e tutte le nuove tasse che ci ha messo Monti. Allora, su tutti i giornali d'Italia è venuto fuori quanto guadagnano gli altri burocrati, a parte i politici, proprio gli altri burocrati, no? Però non si è visto niente che tagli queste spese. Elisa, come grazie. Dalle auto blu e tutto quanto. Sempre insieme, Roberto Giordano con voi, opinionista estemporaneo di oggi è Curzio Maltese, al quale chiedo, Curzio, se puoi essere sintetico nel rispondere a Elisa, che man mano il tempo stringe e ci sono anche altri appuntamenti. Sì. Sì. Dunque, io sono collegato con voi da non so quanto, è caduta 4 volte la linea, perché sì, io abito in una zona centrale a Roma, che si chiama Monteverde, dove non c'è campo. Allora, avere campo, avere la banda larga per i computer e tutto quanto, oggi nel mercato com'è, è più importante che costruire un inutile ponte tra Messina e Reggio Calabria. Vorrei ricordare alla signora che la ferrovia tra Parigi e Londra, che sono un filo più importanti che Reggio Calabria e Messina, è fallita 2 volte. Investire miliardi e miliardi sul ponte sullo stretto è un'idiozia totale, non è, è una cosa che non ha veramente un senso logico. Se si vuole come dire, creare ricchezza e creare, è una, evidentemente una speculazione. Poi con le signore così con l'ideologia non è possibile, è come una volta discutere con i militanti del PC, il segretario aveva sempre ragione. Vabbè, quindi, ognuno insomma rimane della sua idea. Curzio, sono contenti così. Beh, tra poco Luca da Pordenone, ma abbiamo un primo appuntamento che non possiamo assolutamente mancare. Vorrei da Maria Laura Rodotà, commentatrice del Corriere della Sera, la sua osservazione della settimana, cara Maria Laura. Ma l'osservazione sorge spontanea, come si suol dire, dalla lettura dei giornali di stamattina. Sì. E dalle scelte, dal menù del senatore Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, che spendeva 180 euro per delle linguine, temo, al caviale. Vabbè, magari c'era tutto un 4 pesci interi con loro caviale. Sì. Sono, io ho pensato una cosa, chi altro ha questi consumi vistosi insensati al caviale? Gli oligarchi russi. Vero, loro piace perché molto gli oligarchi caviale, russi spendono tanto in queste cose? Perché vengono da decenni di comunismo, quindi se Lusi spende tanto è colpa dei comunisti. È molto chiaro, grazie. Maria Laura Rodotà, e così abbiamo trovato anche una soluzione a questi interrogativi. E adesso invece andrei molto velocemente a un altro appuntamento, visto che il tempo effettivamente continua a correre. E la nostra Valeria Della Valle, che ha scritto, appena pubblicato, un libro molto bello, Ciliegie o Ciliegie, con Giuseppe Patota, e oggi lo presenti al Parco, l'Auditorium Parco della Musica a Roma. Fai un totolingua, ci sono sì, 2406 dubbi. Proprio sulla lingua italiana, ecco dove quello che faremo stasera, speriamo con un grande pubblico, come è in questi giorni, proprio al Parco della Musica e all'Auditorium. 2406 dubbi dall'A alla Z, lo sfogliate, è da portare sempre in tasca questo, perché sì, i dubbi sì, vengono a tutti. 2406 più quello del titolo su ciliegie, appunto, quindi 2407 dubbi con risposta. E si dice ciliegie o ciliegie? Tutte e due. Ecco appunto, basta mangiarle, quelle sono sempre buone. Certo, senti, invece, certo, molto brevemente, visto che il tempo corre, ti vorrei chiedere anche una cosa della settimana, si ritorna sulle quote rosa, le ha chieste anche l'Unione Europea a questo punto, perché dice non sono una scorciatoia per le donne, ma sono un modo per riassestare un po' di equilibrio, visto che non si riesce. Certo. L'etimologia, allora, del termine. L'espressione ha cominciato a diffondersi alla fine degli anni 90 per indicare appunto all'inizio in una lista elettorale oppure anche in un'istituzione il numero di posti riservati alle donne in base a percentuali prestabilite, ma naturalmente come strumento antidiscriminatorio, non certo per favorire le donne. All'inizio l'espressione non piaceva e molti erano contrari perché richiama troppo le quote latte o perché ha quel colore rosa un po' zuccheroso, diciamo così, però ecco, con la lingua italiana non si può mai dire. Oramai l'espressione è entrata nell'uso e a testimonianza di quello che sto dicendo basta andare a controllare su qualsiasi buon vocabolario della lingua italiana dove l'espressione è oramai consacrata, quindi almeno da un punto di vista linguistico, almeno da quel punto di vista, ormai le quote rosa sono diventate una realtà. Per il resto c'è tempo. Grazie carissima Valeria Della Valle. Grazie. Stasera all'Auditorium Parco della Musica. Luca da Pordenone, riesci in 22 secondi? Perdonami, scusa. Allora, vedo se ce la faccio, sarò sì, velocissimo. Sì, un pensiero sulla Grecia e sulla risoluzione del problema greco non lo vedo. Il mio pensiero è che si sta cercando di far credere a tutti quanti le cose positive, ma che alla fine dei conti ci stiano pignorando il portafoglio, dico, in tutto. E che la Cina, un po' alla volta, senza muovere neanche un soldato, sia alla conquista del mondo. La Cina, ma lo sai che proprio ieri leggevo che siccome le studentesse cinesi, visto che parli di Cina, sono troppo brave per fare i test per entrare nelle scuole superiori, anche all'università, adesso stanno cercando di fare dei test più semplici per i maschi, perché sennò rimangono fuori. Come la Cina con le sue contraddizioni. Grazie Luca. Invece volevo chiederti, Curzio Maltese, visto che siamo praticamente quasi in chiusura, allora, di fronte a questa politica, al rischio che i partiti spariscono, ma non credo, D'Alema ha detto no, ritorneranno nel 2013, se lo dice lui, quindi ritorneranno i partiti tradizionali, però nel frattempo, in questa specie di vuoto partitico, anche se il governo Monti secondo me è un governo politico, al sud devi sapere che si stanno candidando per la poltrona di sindaco tre pornostar. No, in questo contesto, visto che qui le cose poco funzionano, e sono Amanda Fox, Milly D'Abraccio e Luana Borgia, che si candidano una a Torre del Greco e due per Taranto. Dici che potrebbero avere successo in questo contesto generale? Beh, insomma, arrivano con parecchi anni di ritardo rispetto a Cicciolini. Vero, quanti anni sono passati? 25 anni, mi sembra. È già percorsa la strada. Ma invece, che effetto ti ha fatto la questione? Hai sentito, per quanto riguarda le Olimpiadi a Londra, che all'inizio le autorità organizzatrici del comitato delle Olimpiadi a Londra avevano detto: mi raccomando agli atleti inglesi, non stringete la mano alla gente, ai vari funzionari, agli altri atleti, perché c'è un passaggio di germi, una specie di l'hai sentita questa cosa? No, non l'avevo sentita, è molto divertente. C'è un passaggio di doping, secondo me è più nocivo alla salute di quello dei germi stringendo la mano. Forse questo non è stato valutato. Curzio, io direi che a questo punto, se tu non hai proprio 20 secondi per commentare qualcosa che è stato lasciato fuori, che sono tantissime le notizie, insomma, secondo te, per esempio, Formigoni si deve dimettere o non si deve dimettere con quello che è successo, diciamo, in par condicio, perché PD penati, poi due del PDL, uno della Lega, che deve fare? Ma guarda, io sono un lombardo e provo un po' di vergogna al fatto che qui, anche senza tante distinzioni tra destra e sinistra, Lega, non ne parliamo, le cifre siano quelle, come dire, dei consigli regionali come la Calabria, dove ci sono infiltrazioni mafiose, le cifre di indagati arrestati. È ovvio che... Questa è l'Unità d'Italia, forse, quella che cercavamo, è possibile? Non proprio questa. Vabbè, speriamo. Io credo che farebbe un bene a tutti se questa storia si riproponesse quantomeno all'opinione pubblica, all'elettorato, con nuove elezioni. Benissimo, grazie Curzio Maltese. Staremo a vedere. Intanto, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.